Subhana man lam yazal rabban rahima. Sia glorificato colui che non cessa di essere Signore clemente. Wa la yazalu karima. E mai non cessa di essere generoso. La ilaha illallah al-halimul karim. Non c'è divinità se non Allah, il mite, il generoso. Subhanallahi wa tabarakallah. Sia glorificato Allah, sia benedetto Allah. Rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Il Signore dei sette cieli, il Signore del trono sublime.